get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte ed eccoci qui alla nostra 104esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo io, Annalisa e Caterina. E come abbiamo già accennato la settimana scorsa e forse molti di voi hanno ricevuto la nostra email, la grande novità di stasera è che la nostra trasmissione può essere ascoltata ormai in tutta Italia e oltre, grazie infatti alle ragazze e ai ragazzi di Radio Onda Rossa che hanno reso possibile tutto questo. Infatti basta semplicemente avere un computer, avere internet naturalmente e collegarsi al nostro sito che è www.clrbp.it e andare nella sezione La Radio. Qui vedrete che c'è un'icona che dal nome in diretta appunto e basta cliccare. Dopo pochi secondi sarete in collegamento diretto proprio con noi. È necessario avere solo un programma che è Winamp e il programma è assolutamente free, potete anche collegarvi al suo sito che è www.winamp.com e scaricarlo, ma se avete bisogno di ulteriori aiuti vi prego di scriverci, il nostro indirizzo è sempre contatti@clrbp.it. Quindi, se avete amiche, come crediamo, sparse in tutta Italia ed oltre, non perdete l'occasione di far ascoltare anche a loro questa nostra trasmissione dal titolo appunto è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Tanto più che noi, lo ricordiamo, siamo pronti a qualsiasi suggerimento e contributo. Dunque, torniamo alla trasmissione odierna. In scaletta oggi è previsto un nuovo profilo per la rubrica Donne Storia, gentilmente inviatoci da Rosanna, che salutiamo, alcune considerazioni sull'essere e sull'apparire e poi naturalmente ci sono i nostri appuntamenti. Vi prego di telefonare qui in trasmissione allo 06 49 17 50. Benvenute a tutte quante, non voglio rubarvi altro tempo e vi lascio in compagnia del primo brano che è Sinéad O'Connor con Nothing Compares to You. Sleep all day. Abbiamo decisamente cambiato musica e adoperò questa splendida voce di Celia Cruz qui in Nova Salsa per farmi da sottofondo al brano che gentilmente ci ha mandato Rosanna dal titolo La filosofia amorosa dell'Amazzone. Amo tutto dell'amore, anche non amare più. Nella storia lesbica, Natalie Clifford Barney, 1876-1972, è stata la seduttrice per eccellenza. Stilare l'inventario completo delle sue relazioni sentimentali sarebbe un'impresa disperata. Eppure, paradossalmente e a modo suo, era dotata di un'incrollabile fedeltà. Ho perso talvolta le mie amiche, ma le mie amiche non mi hanno mai persa. In un suo scritto ha dato di Saffo un ritratto che in realtà è il proprio, e infatti scrisse: «Ella fu irresistibile come tutte quelle che hanno seguito la loro natura, è irresistibile come tutte quelle che hanno osato vivere. Io la credo più fedele nella sua incostanza che le altre nella loro costante fedeltà». Era una personalità complessa, arricchita dallo spessore delle esperienze. A causa della sua longevità e della sua capacità di sopravvivenza, Natalie visse diversi grandi cambiamenti epocali, attraversando da lesbica il periodo della Belle Époque e poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i cosiddetti anni folli dal 1920 al 1936, il nazifascismo, il secondo conflitto mondiale, la ricostruzione e il neocapitalismo. Ma in queste traumatiche metamorfosi del mondo, le sue scelte e la sua filosofia dell'amore restarono miracolosamente intatte. Come lei, continuarono ad esistere e a rinnovarsi. Il contributo di Natalie Clifford Barney alla società e alla comunità lesbica, anche questo una forma di amore, è stato immenso. Natty, infatti, fu il punto di riferimento di moltissime donne che in lei trovarono un ospite, un'interlocutrice, un sostegno, un'amica disponibile e salda. Anche la storiografia lesbica le deve molto, perché nei suoi scritti ha generosamente raccontato di sé e delle altre senza reticenze. L'indiscrezione è un privilegio del tatto, affermava. Dunque, come era nel suo carattere, poteva dire tutto con la sensibilità dell'amore. Americana di Cincinnati, trascorse un'infanzia dorata e felice, coccolata da una ricchissima famiglia. Le regalarono un pony di nome Trisky, sul quale imparò a cavalcare. E cominciò così un'abitudine quotidiana che più tardi le valse il soprannome di Amazzone. Natalie adorava sua madre, pittrice dalla natura felice che bastava a se stessa, così come la definiva proprio lei, il cui motto era vivi e lascia vivere. Nel suo atelier ritraeva fanciulle dell'alta società e la figlia partecipava spesso alle sedute. Con l'alibi di tranquillizzare le modelle, praticava loro massaggi rilassanti apprendendo l'arte del toccare. E dopo una precoce cotta per una cugina, si innamorò di una giovane artista incaricata di farle il ritratto. Su iniziativa della madre, Nathalie era abbigliata da paggio, un travestimento che resterà per lei un'icona erotica e che rivivrà in molti suoi rapporti. Seguirono vari altri flirt finché, durante un viaggio in Francia, insieme a sua madre, incontrò a Parigi Léon de Pougy, del 1869-1950, che era bellissima cortigiana e scrittrice, della quale venne irresistibilmente attratta. Léon raccontò dettagliatamente la loro infuocata relazione nel romanzo Idillio Saffico. Lo scandalo suscitato dalla pubblicazione del libro e anche dalla nuova passione della giovane americana per la stravagante poeta Renée Vivien venne rafforzato da Nathalie con il proprio coming out. E questo coming out venne fatto attraverso una raccolta di 34 sonetti dedicati alle sue amanti, illustrati dalla sua imperturbabile madre. In questi anni, Nathalie, che nel frattempo aveva ereditato dal padre una cospicua fortuna economica, maturò la decisione di trasferirsi definitivamente in Europa. Ho fatto ritorno alle mie origini materne e la Francia è diventata il mio paese d'elezione. Parigi mi è sempre sembrata l'unica città dove ci si possa esprimere e vivere a proprio modo. In questo luogo che continua a rispettare e anche a incoraggiare la personalità, Nathalie abitò prima nella casa di Neuilly e poi, a partire dal 1908, in Rue Jacob 20 sulla Rive Gauche. Ogni venerdì pomeriggio apriva il suo salotto, due stanze tappezzate di damasco rosa, dalle quali, attraversando il giardino, si accedeva al Tempio dell'Amicizia, un piccolo teatro costruito in origine per l'attrice Adriana Lecouvrier, che ospitava rappresentazioni di teatro lesbico, danze e letture di poesia per sole donne. L'appuntamento settimanale del Salon di Nathalie divenne celebre. Le ospiti infatti vi trovarono un tè incomparabile, un delizioso sciroppo alle violette, del cioccolato bianco, esquisiti sandwich e dolci fatti in casa dalla fedele governante Berthe. Nathalie distribuiva la sua brillante conversazione e i suoi acuti aforismi fra artiste, musiciste, scrittrici, cantanti, attrici, giornaliste ed intellettuali. Per tutte le donne creative e famose dell'epoca, da Gertrude Stein a Marguerite Yourcenar, da Vita Sackville-West a Greta Garbo, una visita a Rue Jacob era un punto da non perdere, ma anche un piacere senza precedenti. Per Nathalie, che si definiva una collezionista d'anime, ogni contatto era intenso. Questa qualità di attenzione venne ricambiata da molte scrittrici che, in un certo qual modo, replicarono il suo personaggio nelle loro opere. Infatti è la Flossie della serie Claudine di Colette, oppure la Laurette di L'Ange et le Pervers di Lucie de la Rue Mardou, scusate, oppure la forse più conosciuta Valérie Seymour del Pozzo della Solitudine di Radcliffe Hall. La poeta russa Marina Zveteva le indirizzò la sua lettera all'Amazzone, in cui raccolse le riflessioni suscitate in lei dalla lettura dei pensieri di un'Amazzone del 1918 della Clifford Barney. Juna Bars ne fece una addirittura carismatica protagonista del suo paradossale Lady Salmanac, camuffandola addirittura nelle vesti della santa Evangeline Musset, predicatrice di una scandalosa filosofia dell'amore. Ma com'era questa filosofia? Femminista e antimonogama, Nathalie chiariva innanzitutto: i miei amori? Multipli. L'amore prioritario era quello per la propria libertà. Se la vita deve essere l'espressione e non la soppressione di sé, la mia non è forse pienamente riuscita e compiuta? E aggiungeva: io amo la mia vita, guidata dall'amore. Ho amato con fervore le mie simili, le più simili possibili. La dimensione amorosa era per lei la cosa più importante. Tuttavia, alla sua fama di conquistatrice si accompagnava una consapevolezza metasessuale. Ciò che noi apprendiamo di più sorprendente e di più misterioso dell'amore è che l'amore non è fisico. Per lei, invece, come intitolò un suo libro, era un'avventura dello spirito. Io sono forse una mistica dell'amore, il che non mi ha distolto dalle sue pratiche esaltanti. Le sue lotte, le sue pene e i suoi misteri sono per me una terra natale. Solo là mi ritrovo nel mio elemento. Nathalie ci avverte di non pensare mai che la vocazione d'amore sia un incantesimo senza prove, è piuttosto una tensione continua in cui occorre orientare e custodire ciò che si ama, esercitare tutta la propria chiaroveggenza e il proprio fascino per rinnovare la sua felicità. Perché possa durare, bisogna che l'amore sia fatto di tutti gli amori. Infatti la sua dichiarata poligamia non le impedì di avere un rapporto con la pittrice Roman Brooks durato ben 53 anni. Roman, che nel 1912 aveva accettato tutte le sue innumerevoli relazioni e avventure, decise di cambiare ad un certo punto registro quando l'ottantenne Nathalie si innamorò di Janie Lovary, moglie cinquantenne di un ambasciatore, e quindi, povera donna, la lasciò. L'archivio delle opere di Nathalie Clifford Barney è custodito nella Biblioteca Letteraria Jacques Doucet di Parigi e comprende circa 20 libri pubblicati, tra i quali saggi, memorie, poesie, romanzi e inoltre manoscritti e testi teatrali inediti e decine di migliaia di lettere. Il loro stile è scintillante, profondo e spesso geniale. Ma Nathalie non accordò mai una grande importanza alla propria produzione letteraria, pur essendo convinta e orgogliosa della sua validità. Preferiva essere poeta nella vita e praticare l'arte di vivere. I miei scritti sono solo il risultato, l'accompagnamento. Non sai che tiene tu voz che fascina, non sai che tiene tu voz tan divina. Un po' snobisticamente si definiva un'umanofila piuttosto che una bibliofila. Affermava di aver sempre scritto stimolata dall'amore o da un'amicizia amorosa e sosteneva: i miei unici libri sono stati gli sguardi delle donne. Morì a l'una del mattino il 2 febbraio del 1972 a 96 anni, mantenendo la sua promessa. Infatti aveva sempre detto: il mio resterà un cuore diamante fino all'ultimo battito. E adesso ascoltiamoci un brano delle Castleberry Dupré prima di continuare a leggere alcune frasi memorabili di Nathalie. Dicevo, Castleberry Dupré con il brano Hot Corn in the Fire. Dio! è una finta, non parte il CD. Allora c'è il CD qui che sta facendo capriccio, abbiamo dovuto con Annalisa trovare subito una sostituzione e pensavamo di allietarvi questo momento con una parodia di una canzone famosa. Non vogliamo anticiparvi niente, vediamo se le riconoscete. Quelle che sono venute da noi a vedere uno spettacolo che avevamo in programma forse le riconoscono. In Piemontese. Le avete riconosciute? Sono le Spaventapassere. Yeah. veramente molto molto molto brave, molto simpatiche. Ma proseguiamo leggendo alcune frasi molto importanti che ha scritto Nathalie. L'amore, questo stato di grazia, questo atto di fede, amare e prendere il volo. Se l'amore ha bisogno di costanza e il desiderio ha bisogno di cambiamento, come conciliarli? Come pretendere di possedere un essere quando si possiede già così poco di se stesse? Credo agli istanti di fuoco, ai momenti di luce, alle variazioni di un lungo attaccamento, ma non alla presa di possesso definitivo di un essere. Cerchiamo di evitare quell'automatismo del sentimento per cui si ripetono incessantemente le stesse parole e gli stessi gesti, quasi senza pensarci né accorgersene. È questo automatismo che in generale rende così noiose le coppie, le lettere d'amore e le riunioni familiari. Solo ciò che cambia e si trasforma resta vivo. Il più tenero dei sentimenti, se non si evolve, è sotto minaccia di morte. Un cuore che non batte con tutte le sue forze e che non conosce debolezze non è che un organo. La vita più bella è quella che si passa a creare se stesse, non a procreare. La delicatezza, questa aristocrazia della forza. La gloria, essere conosciute da chi non si vorrebbe conoscere. Coloro che hanno paura di perdere la giovinezza sono quelle alle quali la vecchiaia non aggiunge niente. Amo troppo gli inizi per saper amare qualcos'altro. Siamo diverse le une dalle altre solo per dei dettagli essenziali. Perché complicare i nostri istinti con la volontà? El que siembra su maíz. Le amanti dovrebbero avere anche dei giorni di libera uscita. Il peggio degli arrivisti è che arrivano. Forse avete ragione, ma forse avere ragione non è avere un granché. Bisogna vivere ogni giorno come se fosse il primo. Spesso mi capita di pensare a tutte le lesbiche come me, che però non sono fortunate come me adesso e si sentono fuori dal mondo, costrette ogni giorno a recitare la parte di donne eterosessuali, proprio come me, 15 anni fa. costrette a tacere sulla loro meravigliosa storia con un'altra donna, a nascondere il loro stato d'animo a tutti e a tutte. Sempre silenziose in famiglia, sempre preoccupate a dare giudizi sui ragazzi in modo da non far capire, sempre allegre e spensierate, pronte a parlare di tutto tranne che di sé, attente a non farsi scoprire, mentre con il pensiero volano a quelle carezze, a quei baci, mai assumere quell'espressione stralunata e idiota di quando si è perdutamente innamorate. Dice agli altri che sole si sta meglio o che è un periodo. E così si zittiscono tutti quelli che ti chiedono come mai una bella ragazza come te non abbia ancora trovato un fidanzato. Poi c'è l'amica di turno che ti presenta tutti i suoi amici e conoscenti single, perché sarebbe così bello uscire a quattro e crescere un giorno i rispettivi bambini. E tu, che imperterrita, li scarti ad uno, adducendo delle scuse stupidissime o trovando difetti irrilevanti, dimostrandoti così la persona più superficiale e difficile che esista. Ma chi ti credi di essere, Sherlock Holmes? Mamma e papà sognano tanto un nipotino, e tu che speri almeno in tuo fratello, tua sorella, così ti lasciano in pace. Non poter urlare a tutto il mondo che sei già felice, che ami profondamente, che sta vivendo uno di quegli amori che si vedono solo nei film, ed ogni bacio che le dai ti fa veramente vedere le stelle, e non vedi l'ora di stare con lei. Un inferno e un paradiso, un secolo prima che arrivi il sabato, un attimo la domenica sera, giorni mangiati, anzi divorati, anni di silenzi e attese, telefonate diaboliche, uno squillo e sono io, due squilli e mi puoi richiamare. A sussurrarsi parole d'amore e non dire che all'altro capo ci sei ancora tu. Ricordo il primo vero grande amore della mia vita. Ero veramente pazza. Noi impegnatissime coi rispettivi, a combattere contro il mondo, così piccole, davanti a dei giganti armati di giudizi pesanti come macigni. Eppure quel giorno, quando tutti seppero, ci tenemmo per mano e su quel ponte ci promettemmo che non ci saremmo mai arrese, che ci avremmo provato. E quel giorno, atterrita con le macchine che passavano, le persone che lanciavano un'occhiata, io sentivo solo il calore della tua mano e il tuo sguardo sicuro. Questa canzone l'ho amata subito, mi ha dato un'emozione durata 5 minuti. È scritta da Mariella Nava ed interpretata da Tosca, parla di una storia di lesbiche che mi ha catapultato indietro di 15 anni. La storia è vista dall'esterno, perché forse sarebbe stato troppo compromettente parlarne in prima persona, e racconta delle paure, delle angosce e della vergogna di vivere alla luce del sole una storia d'amore come tante. Il finale è positivo, quando c'è la decisione di amarsi liberamente in mezzo alla gente. E quindi dedico questa canzone a tutte le lesbiche che hanno vissuto, che stanno vivendo una storia d'amore, ma che al lavoro, in famiglia, con gli amici devono mentire continuamente e nascondere la loro felicità. La cosa più importante è amare, e non c'è differenza. Tuona tuona con il sole sopra un'amicizia amore, la dolcezza che vi muove, piano le carezze piove. Piove lacrime e veleno, dimmi amore dove andremo, e le giura seno a seno, sotto un cielo agli altri osceno. Occhi dietro una finestra, ma che storia disonesta, come un'ombra sulla vita, la terra trema inorridita, ma è una storia come tante, un corpo uguale a un'altra amante, amarsi dentro ad un riflesso, toccarsi nello stesso senso. Forse nei particolari, ma l'anima non li ha più uguali, come le mani che le scalderai. Maledetta l'apparenza, cupo, ferme late di un dirupo, freddo rosso sul suo viso, hai paura all'improvviso. Paura tutti i giorni, dell'infamia nei dintorni, e le giuri ventre a ventre, amore non mi importa niente. Al di là di una ringhiera, quella strada che non c'è, è un terreno più sconnesso, ma la vuoi, ma ti è successo. E per me non è indecente amarvi in mezzo a tanta gente, maledetta l'apparenza. Dov'è la differenza? Forse un corpo con le ali per la festa dei normali, questa sera tu non le vuoi. Allora, io lo so che adesso voi starete chiedendo chi ha scritto quel meraviglioso pezzo che ha letto Annalisa. Io adesso vi faccio anche una piccola confessione. Annalisa è molto timida, ha cominciato a leggere il suo pezzo senza neanche introdurlo minimamente. Ci ha regalato questa sua testimonianza molto molto carina. Noi chiaramente aspettiamo sempre anche le vostre testimonianze, e con l'occasione vi ricordo, anche se ormai dovreste saperlo, che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, e potete ascoltarci attraverso il nostro sito, che ricordo è aiutami, qual è, eccolo qua, www.clrbp.it, oppure ci potete fare i famosi trillini, che sono quegli squilli deliziosi che accompagnano sempre le nostre trasmissioni, al 06 49 17 50, oppure ci potete telefonare tutti i mercoledì a partire dalle 21 allo 06 68 64 201, oppure potete scriverci a Coordinamento Lesbiche Romane, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Gli appuntamenti. Allora, come primo appuntamento vi ricordiamo che il 13 giovedì prossimo verrà proiettato all'interno della nostra rassegna di Les Bollywood Are You Greedy di Federica Tuzzi e Cristina Uolo del 2000, dura un'ora ed è un documentario. Si tratta di 60 interviste a donne lesbiche in Europa, negli Stati Uniti ed in Africa, su 7 tematiche riguardanti la sessualità e l'erotismo, e Dove mettere le mani di Cristina Uolo, che è un cortometraggio. Da non perdere assolutamente, preparatevi a venire. Invece il giovedì successivo, il 20, c'è il film del 99, Chutney Popcorn, ed è una commedia, ve lo consiglio vivamente. Gli Io invece vi volevo leggere questo piccolo comunicato, non tutto naturalmente, che ci è stato mandato dalla lontana Sicilia, bellissima terra, ed è praticamente la preparazione del Pride 2002 che va dal 24 giugno al 4 luglio, pensate, a Catania e Palermo. E la mail dice questo, che questo Pride esiste e resiste da 3 anni, tra insidie e attacchi velati e non, l'open mind cresce in orgoglio e fantasia e chiama tutte e tutti a partecipare sempre più attivamente ad un'opportunità imperdibile per la tutela dei diritti di ciascuna e di ciascuno. Perché se è vero che la libertà non ha prezzo, è vero pure che difenderla e garantirla costa tanto impegno. Resisti anche tu, sostieni il Pride. E io non vi leggerò tutti gli eventi in programma, ma vi invito a visitare il loro sito, ce ne sono 3. Uno è www.openmind.tu con 2 O. .it, l'altro è l'Arci di Catania, che è molto più facile, che è catania@arci.it, e l'altro invece Lady Oscar Circolo Arci Lesbica, che è l.oscar@catamail con la K iniziale .it. E ancora di nuovo ricordiamo l'assessorato alle politiche culturali, Dipartimento Cultura, Ufficio Convegni, Mostre e Conferenze, organizza il convegno Letteratura Lesbica, dalle grandi madri alle grandi figlie, il 26 e il 27 e il 28 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, qui a Roma, alla Casa delle Letterature, Piazza dell'Orologio 3. Il programma, vi leggo soltanto quello del 26 per ragioni purtroppo di tempo, poi vi aggiorneremo via via. Il 26 giugno dalle 16 alle 19 ci saranno Teresa De Lauretis, Daniela Danna, Ambra Pirri, Simonetta Spinelli e Liana Borghi. C'è un altro comunicato molto interessante che ci arriva dalla Casa Internazionale delle Donne, che ci annuncia che ci sarà un incontro con Vandana Shiva, che è della rete Diverse Women for Diversity, alla Casa Internazionale delle Donne giovedì 13 giugno alle ore 18:30 sulla globalizzazione donne e sicurezza alimentare. E vi do i recapiti dell'ufficio stampa: Stefania Vulterini 06 6879 452, e il fax 06 855 1683, oppure potete scrivere un'email a vulterini@tiscalinetto.it. E tra gli appuntamenti ce n'è il workshop Keeping Food Security in the Hands of Women, Tieni la sicurezza del cibo nelle mani delle donne, organizzato da Diverse Women for Diversity, l'associazione della casa, dalle 9 alle 13. E invece poi dopo sarà l'ospite proprio dell'incontro conclusivo dei dialoghi di donne sulla globalizzazione alla Casa Internazionale proprio delle Donne, via della Lungara, dalle 18:30 alle 21, e c'è proprio l'incontro di chiusura, quindi capita proprio a fagiolo, no Caterina? Perché certo. Praticamente voi andate alle 18:30 a vedervi questi dialoghi di donne sulla globalizzazione e poi alle 21:30 ci raggiungete per il documentario, qual era? Era Dove mettere le mani più Are You Greedy, cioè Sei golosa, che appunto sono interviste sulla sessualità. Oye como dice mi soncito, para que lo bailen los piecitos. Y ahora para terminar, este sabroso soncito. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah.